parte. Te lo immagini? Special stay BGZ. Hai voluto la BGZ e mo pedala. Sei il mio respiro, sei croce e delizia. E sei colì che mi vizia, sei musica, sei pop, sei vita. Sei a 15, sei infinita. Sei sveglia dalle 6 per dirmi sei sinonimo di. Sei il piano BGZ. Sei funky domattina. Son funky domattina. Son sveglio dalle 6 per dirti sei mia. Sei sfida, sei mitica, sei mamma, donna, femmina e mamea. Sei io. Sei proprio un'odissea. Oh mio Dio, che c'è? Perché disturbi me? Sono special stay. Stavo pensando a te, ho pensato a te. Stavo pensando a te, ho pensato a me. Stavo pensando a me.